Vi vado a raccontare quello che il progetto prevedeva nella sua fase finale. Il progetto, come al solito, anche quest'anno ha avuto una serie di attività laboratoriali presso diversi soggetti. Tutto questo lavoro confluisce nell'evento finale che era stato pensato e progettato per Sala Borsa, che consisteva in 5 grandi tappeti dislocati nella sala coperta, nella piazza coperta e sul primo ballatoio, e questi tappeti vedevano un attore e un musicista e il pubblico andarsi a disporre tutto intorno. Erano 5 tappeti in cui accadevano 5 narrazioni diverse che andavano a comporre questo grande quadro chiamato L'invenzione del Medio Oriente. Questi 5 tappeti dovevano essere il fulcro di questo spettacolo itinerante per tutta la Sala Borsa. Ora, con la situazione che ci obbliga a ripensarlo, è stato costruito l'abbiamo chiamato un video spettacolo. In realtà ogni tappeto con i suoi attori ha avuto delle riprese particolari. Si compone quindi un video spettacolo che sarà messo online domenica 15 novembre alle ore 18 sul sito del Teatro del Pratello. 5 tappeti interpretati da Maurizio Cardillo, attore bolognese che già nel passato aveva partecipato ad altri spettacoli, Maddalena Pasini, Viviana Venga, Fulvio Accogli e Ralph, un ragazzo che ormai da qualche anno lavora con noi, ha cominciato a lavorare dentro l'istituto penale del Pratello, è uscito e adesso in comunità continua a collaborare e a cimentarsi in lavori, diciamo, sempre più responsabilizzanti. Dico i temi di questi 5 tappeti per comprendere di che cosa si tratta questo spettacolo. Il primo tappeto intorno a cui il pubblico si sarebbe dovuto avvicinare è dedicato in realtà a un tema del passato. È dedicato al primo incontro tra Francesco e il sultano. Siamo nel 1200. Questo è una sorta di grande antefatto. Il secondo tappeto, dal titolo La grande illusione, l'accordo Faisal-Weissman, presenta un fatto che è sconosciuto ai più, perché nel 19 l'emiro Faisal si incontra con Weissman, uno degli esponenti sionisti più importanti, e stilano un accordo in 15 punti di reciproco rispetto tra ebrei e arabi e di sostegno reciproco. Questo accordo sarà fatto fuori, non esisterà più. Gli inglesi e i francesi lo celeranno, e la sua notizia fu portata fuori negli anni 30 dai russi che lo ritrovarono. Terzo tappeto, chiamato Promesse e tradimenti, incentrato sul fatto delle tante promesse fatte dagli occidentali e poi tradite nei confronti degli arabi e degli ebrei. Quarto tappeto, chiamato il grande caos, come dire, uno sguardo, una carrellata sui titoli dei giornali dagli anni 30 agli anni 50, in cui si cerca di ricostruire un caleidoscopio di tutti quegli avvenimenti che sono successi sino alla guerra del Sinai. Infine, l'ultimo tappeto, pregiudizi e inconsapevolezza. Sono gli sguardi dell'oggi riguardo al Medio Oriente, con tutti i nostri pregiudizi che abbiamo, e questo tappeto è stato, come dire, realizzato attraverso un laboratorio di scrittura che si è sviluppato all'interno dell'associazione Melograno con donne straniere. Quindi ha avuto una sua evoluzione in un laboratorio online quando lo scoppio della pandemia ha bloccato tutte le attività, e raccoglie, diciamo, tutta una serie di scritti su quello che è la nostra percezione oggi di quel gran caos che è il Medio Oriente.